Avventurieri, la mappa che avete ricevuto è logora, consumata dal tempo. Le coordinate precise sono scomparse, ma restano incise alcune tracce geometriche, lasciate dalle popolazioni nomadi. Sul margine inferiore della pergamena compaiono due triangoli rettangoli. Il primo ha cateti di 6 km e 8 km. Il secondo ha cateti di 3 km e 4 km. Iniziate calcolando le ipotenuse.